Bentornati a Rock Legends su Radio RCS l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire ai nostri ospiti Mexican Whiskey. Ok, allora sui 98,6 per la bassa veronese zona della Lessinia e 101,5 per Verona città e rimanente provincia. Radio RCS potete ascoltare anche in streaming e in podcast dal sito www.radiorcs.it. Dall'hard blues americano a quello inglese, di quello stesso periodo scavando tra le formazioni meno conosciute. Prima canzone era Ride in the Sky dei Lucifer's Friend, dal disco di esordio Lucifer's Friend del 1970, formazione anglo-tedesca in cui spiccava un talentuoso John Lawton, poi negli Uriah Heep. Io penso sempre che band come queste meriterebbero di essere riscoperte alla pari delle grandi formazioni. Voi cosa dite? No, sicuramente, anche perché andiamo a cercare musica nuova, cercando di scoprire altra musica che esce in questi giorni, in questi anni, quando non ci accorgiamo che in realtà basta che andiamo a spolverare un attimo magari anche i dischi dei nostri padri volendo. Into the Sun è il titolo del vostro disco, qual è il significato che sta dietro a questa frase? Beh, un po' il nostro suono, il calore delle valvole, degli amplificatori, insomma. E noi cerchiamo di avere un suono caldo e vintage e massiccio. Ho capito. L'hard rock inglese si sviluppa verso la fine degli anni 60 grazie al sound pesante che certe formazioni blues cominciano ad adottare. Tra queste vi è da segnalare i Bakerloo, durati lo spazio di un disco e noti per aver ospitato la chitarra Clem Clemson, futuro Colosseum e Humble Pie. Dal disco omonimo Bakerloo del 1969 ci fanno ascoltare Once Upon a Time. Take Suoni ancora una volta che lo stoner ha mutuato in toto, che ne dite? Sì, lo stoner è molto influenzato dai suoni vintage. Anni 70. Anni 70, special modo. E un po' più rimodernizzati, ma sì, richiama molto i suoni dell'epoca, insomma. Bene. Tra le vostre esperienze, anche quella di aver condiviso il palco con altre band, come vi siete trovati finora? Ah, molto bene, anche perché comunque abbiamo sempre trovato persone che molto alla mano, che ci hanno aiutato tantissimo e che comunque alla fine l'importante è star bene insieme. Non esiste, diciamo, conflittualità oppure invidie, diciamo, tutto sommato tutti i gruppi veramente in gamba e bravi. Chiudiamo allora la seconda parte con gli Humble Pie, la band di Stevie Marriott e Peter Frampton, in una live session televisiva in Germania nel 1969 con il brano The Sad Bag of Shaky Jake. Noi torniamo dopo la pubblicità con i Mexican Whiskey, che ci faranno ascoltare 6 canzoni dal loro disco Into the Sun. Non mancate. In Abilene, I had to use a gun, well, for my own sake. Shot a man down when I was just 18. From that day they called me Shaky Jake. Shaky Jake, boy, what you gonna do? That's a stranger's coming after you. Here's a price you pay for one mistake. Get off the streets, it's Shaky Jake. Says I was born on the bad side. Well, I was looking for the chance to make a break. I cut my teeth on a brand of nine. I'm a devil's own son. I'm shaking, shaking, shaking, shake, boy. What you gonna do? Texas Rangers coming after you. Here's the price you pay for one mistake. Get off the streets, it's shaking, shake. I keep on the road. I don't need anyone. Someone, someday, somewhere's gonna see me right. Dig a hole about 6 foot deep. Pretty light for a soul to take. Do want flowers and nobody's gonna weep. He lies that outlaw, shaking, shaking, shaking, shaking, boy, what you gonna do? Strangers coming after you. Here's a price you pay for one mistake.